si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.34 di questo sabato 25 ottobre e benvenuti ad una nuova puntata di Caccia al fotone. 3380 9494 per inviare un sms e per inviare una mail cacciafotone@radiocittafujiko.it. E questa settimana parleremo di un festival. Parleremo di The Event, il Festival della Scienza di Genova. E al telefono collegato con noi abbiamo Andrea Sessarego, uno dei curatori del Festival della Scienza di Genova. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi e diciamo benvenuti al Festival della Scienza. Siamo qua a Genova in gran fermento per l'inizio del festival. Andrea, questo è il sesto anno, giusto? Esattamente, è il sesto anno e la frase che ci piace dire quest'anno è il festival va a scuola, nel senso che il festival ha raggiunto i 6 anni di età e quindi è in prima elementare, diciamo, quindi un successo che si conferma, che ormai si è radicato all'interno della nostra città, che ogni anno cresce e che ogni anno porta a Genova, diciamo, una marea, un'invasione di persone curiose, scienziati, premi Nobel, laboratori, mostre e eventi, diciamo, che sono pronti a spiegare i lati più nascosti e curiosi della scienza, diciamo. Andrea, esploreremo il festival nel proseguo della trasmissione, ma hai 100 parole per descrivere il festival per invitare una persona a venire al Festival di Genova. Cosa diresti? Allora, vivendolo da dentro da parecchi anni, direi che assolutamente il festival è un'esperienza di vita. C'è la possibilità di girare per tutta la città e ad ogni angolo fiorisce un evento scientifico, un laboratorio, una mostra, una conferenza, tutti ospitati da palazzi storici e luoghi culturali, turistici di Genova, e quindi è un meraviglioso viaggio attraverso la città e la scienza. E adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo musicale dei Silence is Sexy. Il pezzo si intitola Come Back to You. Ovviamente anche questa è musica Creative Commons. E bentornati all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Il gruppo che state ascoltando, Silence is Sexy, ed è un gruppo olandese che produce musica Creative Commons. Potete trovare questa musica al sito www.jamendo.org. Ma oggi si parla di festival. Festival della Scienza di Genova. E ancora al telefono abbiamo collegato Andrea Sessarego del festival. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Andrea, normalmente ai nostri ospiti facciamo un quiz. Gli facciamo ascoltare un pezzo di un film e gli chiediamo di indovinarlo. Ok. Pronto? Via. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Andrea, l'hai riconosciuto? Anche se da un po' che non lo vedo, credo sia Blade Runner. Esatto, Blade Runner, in cui ho visto cose che voi umani, non potreste immaginare. Esatto. E qua si parla di vedere le cose. In realtà il festival è impostato su tre concetti: che se ascolto dimentico, se vedo ricordo e se faccio capisco. Che cosa vuol dire questo? Esattamente, fin dal 2003, da quando è nato, il motto del festival è, al contrario di molti musei, forse un po' noiosi, la frase chiave è vietato non toccare, nel senso che tutte le mostre e i laboratori del festival sono impostati affinché il visitatore sia attivamente coinvolto nel, diciamo, mettere le mani sulla scienza. Quindi attività laboratoriali e mostre dove ci sono exhibit assolutamente interattivi, dove l'animatore scientifico non si limita a spiegare ma a chiedere attivamente ai visitatori di collaborare con lui nel scoprire quale fenomeno scientifico si vuole poi andare a spiegare. Andrea, quindi è questa la necessità del festival, che parli di scienza fondamentalmente? Esattamente, non è solo parole ma soprattutto azioni, e questa è la formula, diciamo, vincente di questo festival, dove le classi arrivano e subito vengono coinvolte, qualcuno riceve un camice, qualcuno una mascherina, qualcuno delle pinzette, strumenti vari, e si mette subito all'opera e, diciamo, nei vari laboratori. Andrea, io ti chiedo di ripercorrere un attimo la tua esperienza all'interno del festival, quindi ormai lo vivi da 6 anni come, insomma, principale, uno dei principali curatori di questo festival. Ti chiedo, insomma, di descrivermi più o meno come è nato il festival, da chi è partita l'idea, quanti animatori partecipano a questo festival, quanti sono i curatori e soprattutto come si vive l'ambiente del festival. Perfetto. Allora, il festival nasce nel 2003 da un'idea dell'INFM, l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia, che già da parecchi anni produceva mostre divulgative. Dal grande successo di queste mostre, nel 2003, insieme a Codice Idee per la Cultura, nasce la voglia di andare oltre e di dire: ma perché non facciamo un festival e proviamo? Il 2004, quando Genova è stata capitale europea della cultura, ha fatto da volano all'evento e che si è assolutamente ormai insediato nella città con un grande successo, e siamo alla sesta edizione. La mia esperienza personale invece nasce, diciamo, dal basso, nel senso che io ho iniziato nel 2004 come animatore scientifico, quindi ero in università, ho visto la locandina e ho detto ma perché no? Il 2003 l'avevo fatto come visitatore e avevo visto questi ragazzi con maglietta bianca che erano così bravi a coinvolgere le persone, e quindi mi sono lanciato e sono entrato in questo mondo da cui non sono più uscito, perché nel 2005 sono passato a coordinare insieme ad altri colleghi tutto il gruppo di animatori scientifici, e da quest'anno mi occupo anche dell'organizzazione di mostre e laboratori e della ideazione e creazione di un laboratorio per bambini insieme ad altre persone. Andrea, ti voglio fare una domanda: sono gli argomenti che ti hanno attirato oppure il modo di raccontarli? Io sono rimasto nel 2003, quando appunto ho visitato il festival per la prima volta, sono rimasto proprio colpito dagli argomenti che studiavo, come venivano spiegati, come venivano presentati, e mi sono detto questa è una formula assolutamente fantastica per divulgare concetti scientifici. E di lì è nato l'amore per il festival, che poi fortunatamente è continuato, continua e cresce, diciamo. Senti, entriamo nell'argomento del festival di quest'anno, quindi il festival del 2008. Esatto. All'interno di questo festival si parla di diversità, quindi diversità della tecnologia, esatto, delle idee, del linguaggio, della materia, della mente, della vita. Che cosa vuol dire prima di tutto diversità e come sono impostati questi diversi percorsi? Allora, il tema della diversità, la parola chiave di quest'anno diversità, dà spazio a tantissime interpretazioni, dalla diversità della vita, quindi tutta la biodiversità, ci sono molti eventi relativi, tantissime diversità della tecnologia, anche diversità tecnologiche di popoli differenti, quindi stessa tecnologia però inventata e creata in modi diversi, la diversità delle idee del linguaggio, c'è un percorso molto bello sulla diversità, diciamo, delle persone, quindi sui diversamente abili, dove persone normalmente abili possono sperimentare la diversa abilità e vedere la cosa sta facendo la scienza e la tecnologia per ovviare a questa di diversa abilità, diciamo. La diversità delle idee invece va un po' a mettere insieme tutto quello che le persone pensano di scienza, e quindi le diverse idee che uno ha sulla scienza, quindi si va a parlare di bioetica e di tutte le diversità culturali relative alla scienza, diciamo. E quindi diversi percorsi sono fondamentalmente fatti per esprimere tutti i vari settori della scienza. E poi nella seconda parte della trasmissione esporremo proprio il fatto che il Festival della Scienza di Genova attraversa quasi trasversalmente la vita di tutti i giorni, quindi sia le cose che pensiamo sia le cose che facciamo. Io intanto, Andrea, ti lascio in collegamento, mettiamo un altro pezzo musicale e ci andiamo ad ascoltare questa volta Night Out dei Silence is Sexy. E bentornati all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E quest'oggi stiamo parlando del Festival della Scienza di Genova. A telefono ancora collegato con noi Andrea Sessarego del Festival. Ribongiorno Andrea. Ribongiorno a voi, a tutti quanti da Genova. Andrea, al 33 180 94, quindi al nostro numero di SMS, ci arriva appunto un messaggio che chiede: sì, Genova il festival, ma Genova dove? Genova dove è difficile da dire. Allora, sul sito è stata creata appunto una mappa di Google, perché le location sono veramente tantissime. Il festival, una delle caratteristiche di questo festival è che non è all'interno di un unico luogo, di una fiera, ma si sviluppa in tutta la città, quindi tutta la città è coinvolta da Levante a Ponente. Palazzo Ducale, diciamo, è il fulcro di questo festival ed è il fulcro, diciamo, della città, ma si passa al Porto Antico, si arriva alla Commenda di Pre, che è nella zona ponente della città, si arriva addirittura a Sestri Ponente, che è l'estremo proprio a ponente di Genova. Ma soprattutto la cosa ancora più particolare è che ogni anno, da 4 anni, esiste il festival in Liguria, quindi non solo Genova ma anche Sanremo, Busalla e Science Trip, che è questo viaggio da La Spezia a Ventimiglia, ovvero realtà divulgative che si presentano in occasione del Festival della Scienza, diciamo. Senti Andrea, prima di lasciarci con il pezzo musicale ci siamo lasciati fondamentalmente con un concetto, che il festival abbraccia un pochino tutta la società. Infatti voi siete famosi per essere riusciti a incrociare sempre argomenti apparentemente non attinenti con la scienza. Io mi ricordo per esempio La Scienza in Cucina nasce proprio a Genova. La domanda è piuttosto banale, però te la faccio lo stesso: come fate a incrociare argomenti così diversi con la scienza, che sembrano insomma non coinvolgere per niente la scienza? Diciamo che la scienza è un termine molto ampio, un campo molto ampio, e siamo immersi nella scienza. L'abilità di chi lavora al festival, di chi progetta questi eventi, è quello di essere dei buoni osservatori e guardare, osservare e vedere cosa c'è di scientifico anche nelle cose più disparate e probabilmente immaginabili lontano dalla scienza. Dicevi tu appunto La Scienza in Cucina, che ormai è un nostro cavallo di battaglia, va a proprio indagare tutta la scienza che c'è nella nostra cucina. Quest'anno La Scienza in Cucina, mi collego a questa domanda, sbarca in Cina, nel senso che frutto di un gemellaggio che c'è da 2 anni tra il nostro festival e il Festival di Shanghai. Il nostro festival è stato a Shanghai, al Science Festival di Shanghai, con una mostra Semplice e Complesso a maggio, e adesso il Science Festival di Shanghai è qua. Anche loro si sono innamorati di questa capacità del Festival di Genova di trovare la scienza ovunque, e c'è nel padiglione cinese un bellissimo laboratorio di scienza in cucina cinese, quindi si può andare a cercare tutta la chimica e la fisica che c'è nella preparazione dei piatti cinesi. Senti Andrea, lasciando un attimo gli eventi tra virgolette accessibili per le scuole, il festival ha anche la parte tra virgolette più seriosa e più tra virgolette istituzionale, quindi le lectio magistralis. Per esempio ieri c'era una conferenza che io purtroppo mi sono perso, una ignobile conferenza che spero che insomma mi racconterai un pochino. Io invece c'ero e ho avuto la fortuna di esserci. Ieri sera sono stati presentati per la seconda volta, dopo il successo dello scorso anno, gli Ig Nobel, che sono questi meravigliosi premi dati alle ricerche e studi più pazzi che vengono fatti da ricercatori di tutto il mondo. E ieri sera, diciamo, il pezzo clou è stato un intervento dal titolo Effetti sull'apparato gastrointestinale dati da un mangiatore di spade. E avevamo il mangiatore di spade oggetto di studio e il medico che lo ha studiato, e quindi diciamo che il pubblico è rimasto veramente colpito da queste scoperte. Posso dire solamente meraviglioso, insomma. Assolutamente, assolutamente. Senti, poi aspettiamo un altro evento, un evento che secondo me sarà abbastanza scoppiettante, quindi Il Diavolo e l'Acqua Santa, lo scontro fra Odifreddi e Labinetti. Lo stiamo aspettando tutti. tutti, lo stiamo aspettando tutti anche a livello organizzativo, nel senso che speriamo e crediamo che sarà un grande evento con un grande afflusso di pubblico. Già gli infopoint tutti chiedono come fare a prenotare per vedere questo evento, e vedremo, ce ne sarà un bellissimo incontro, giusto per tornare al percorso della diversità delle idee, di un incontro, un dibattito fra persone che la pensano in maniera molto diversa, che vedremo cosa succederà, diciamo. Ci vuoi ricordare quando è e a che ora? Allora, è l'ultimo giorno di festival, quindi, no, il 2 novembre alle 21 a Palazzo Ducale. A Palazzo Ducale. Senti, e poi c'è un evento che si sta ripetendo durante il festival, il Candido. Che cos'è il Candido? Il Candido è questo meraviglioso spettacolo che è nei teatri di Genova, coprodotto dal Festival della Scienza. È un viaggio tragicomico all'interno della scienza, diciamo. Io ne ho scelti alcuni che sono quelli, sì, che ti ho chiesto di commentare. Tu quali eventi sceglieresti di consigliare a un ipotetico visitatore del festival? Allora, vabbè, sempre sul tema del toccare, che se tocco imparo, se faccio imparo, ci sarà la bellissima Lectio Magistralis il 31 di ottobre, tenuta da Wendy Pollock, che è una esperta internazionale di divulgazione scientifica. Slow science, imparare a conoscere la scienza divertendosi, quindi il tema del divertimento come canale per far passare concetti scientifici, che è un po' quello su cui si basa il nostro festival. Poi una molto interessante, che va a toccare un tema di cui si parla spesso, è Il cervello ha un sesso, con Catherine Vidal, una famosa neurobiologa dell'Istituto Pasteur, e si va un po' a sfatare questo mito di ma perché le donne sono più brave in qualcosa rispetto agli uomini, gli uomini si orientano meglio, sarà qualcosa di realmente vero, neurobiologicamente vero, oppure è solo una questione di abitudine a fare certe cose piuttosto che altre, e quindi un simpatico dibattito su questo tema di cui spesso si parla. E poi un'altra carina, molto bella, il 1 novembre, L'atomo sociale, di Mark Buchanan, uno studioso, un fisico studioso della teoria del caos, che cerca un po' di trasportare le regole della fisica alla società, quindi il tentativo di imbrigliare in certe regole che si rispettano in tutti i fenomeni naturali, imbrigliare queste regole, cercare di imbrigliare i rapporti sociali, i comportamenti umani secondo qualche legge molto difficile che ciò avvenga, ma questo scienziato ci sta provando, sta cercando di paragonare le leggi della fisica alle leggi che regolano la nostra società. Ci lasciamo con un altro pezzo musicale, che è Talk, sempre dei Silence is Sexy. Io ti lascio prendere un pochino di respiro e poi quando torneremo in studio ti chiedo le considerazioni finali e soprattutto, certo, se ce le hai, delle anticipazioni sul festival del prossimo anno. Ok. My lips were sealed. I tried to talk, but my mouth just wouldn't move. Thousands of things to say, but to my growing dismay, I couldn't find a single line I could approve. movies and more. And I will find a thousand lines you'd like to hear. Answers I need. E benvenuti nell'ultima parte di Cacciafotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fugico. Ci è arrivata una mail all'indirizzo cacciafotone@radiocittafugico.it. Oggi si parla del Festival della Scienza di Genova. E nella mail Giovanni ci chiede: qual è il sito del Festival della Scienza di Genova? E noi questo qui sito lo poniamo direttamente a Andrea Sessara, uno dei curatori del Festival. Allora, il sito è www.festivalscienza.it e trovate tutto, veramente tutto, tutto il programma, le mappe, le location disponibile sul nostro sito. Andrea, conclusioni finali e se ce l'hai delle anticipazioni per il nuovo festival? Allora, conclusioni finali, siamo partiti da 2 giorni, il successo è già grande, scolaresti da tutta Genova, Liguria, Nord Italia stanno arrivando, sono prenotate, abbiamo tantissime prenotazioni,